in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ultima domenica di giugno, se n'è andato anche questo strano giugno e quello che si aspetta adesso per quel che resta dei lavori parlamentari e di quelli del governo sono il decreto semplificazioni e forse una parola di certezza sulla scuola, qualcosa si sa invece sul famigerato MES. E il Sole 24 Ore decide di aprire proprio su questo decreto semplificazioni. Ecco il piano, valutazioni ambientali più veloci, gli interventi in arrivo. Giorgio Santilli poi a pagina 3 approfondisce tutto quello che finora si sa. Nel decreto legge 50 articoli circoscritti l'abuso d'ufficio che sapete spesso rallenta o addirittura spaventa gli amministratori locali e quindi rallenta l'approvazione dei provvedimenti e responsabilità erariale, poteri eccezionali alle amministrazioni per accelerare ma senza commissari. Sapete che invece questo è il modello Genova dove c'è un commissario. Martedì vertice politico, poi il CDM. Su tutte le altre questioni ci sono naturalmente il tema, come vi dicevo, del MES che viene approfondito all'interno e in generale il rapporto con l'Europa e da qui anche il tema importantissimo della nuova presidenza. Ogni semestre cambia la presidenza dell'Unione Europea. Quello che sta per iniziare mercoledì 1 luglio è il semestre di presidenza tedesca e da qui l'approfondimento di Sergio Fabbrini che poi trovate a pagina 13. Da luglio l'Unione Europea diventa attrazione tedesca. La fotonotizia però è dedicata a un approfondimento della domenica che poi trovate alle pagine 10 e 11, ombre sull'oil and gas nell'Artico russo e il motivo è il disgelo siberiano, energia a rischio. Il Corriere della Sera, vi dicevo, la questione MES apre su questo. Il MES e i tanti rinvii, tensione nel PD con Conte e 5 Stelle, perché sapete che si paventa addirittura una decisione a settembre. Poi in prima pagina la notizia di cronaca di cui sicuramente avete sentito e che i giornali approfondiscono in vario modo di quell'uomo che ha ucciso i suoi due bambini, erano gemelli, un bambino e una bambina, avevano 12 anni e poi si è ucciso a sua volta. Ma vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli che parla dell'altro tema, dicevamo, appare in qualche modo risolto, nel senso che le linee guida per la riapertura delle scuole il 14 settembre ci sono, ma resta naturalmente da affrontare anche il tema di come comunque la scuola ricomincerà e degli effetti che ha avuto questo congelamento delle attività scolastiche in questi mesi di lockdown. Curare il capitale umano, si intitola l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, ve lo leggo, vi leggo la prima parte. Gita Gopinath è la prima donna capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Nella relazione alle previsioni catastrofiche del 2020, che vedono particolarmente colpita l'Italia, ha dedicato un capitolo alle perdite non quantificabili in alcun bilancio subite dalle giovani generazioni per la chiusura delle scuole in 150 paesi. Riprendendo una stima delle Nazioni Unite che parla di 1,2 miliardi di studenti bloccati dal lockdown, si è soffermata su quello che paventa essere un danno pressoché irreparabile, causa di ulteriore povertà e maggiore disuguaglianza. Originaria dell'indiano Kerala, Gopinath immaginiamo che scriva con cognizione di causa. Quando le chiesero che cosa consigliasse all'Italia, rispose di investire soprattutto sul capitale umano. Noi abbiamo discusso nella settimana appena terminata più di distanziamento, di adeguamento delle classi, di orari e contratti che di programmi di recupero e qualità dell'insegnamento. Del resto, i test invalsi li abbiamo rimossi e abbiamo dato così la spiacevole sensazione che sia tutta una questione di dove metterlo il capitale umano senza peraltro riuscirvi, non di come farlo crescere. E l'editoriale poi continua in pagina 24. Vi segnalo a proposito di invece ironia pura ma purtroppo che nasconde o serve anche a sottolineare problemi reali e che ci porta anche sull'altro grande tema delle elezioni regionali che ci saranno a settembre, il Padiglione Italia di Aldo Grasso, oggi dalla prima pagina del Corriere della Sera, si intitola La politica e la morale del Chihuahua. È tutto dedicato a Susanna Ceccardi, candidata a presidente della Regione Toscana. Susanna Ceccardi, europarlamentare, ex sindaco di Cascina, nel Pisano, è la candidata unitaria del centrodestra per la carica di presidente della Regione Toscana. Salvini è un suo fan, lei ricambia riconoscente, ma è anche una fan dello spray al peperoncino, sa come farsi riconoscere. La ricordiamo ospite fissa di anno 1 di Michele Santoro, era giovane, era determinata, intenta ad esprimere pensieri come questo. Chi mi accusa di tenere più alla vita di un chihuahua che alla vita di un immigrato non capisce che i chihuahua non sbarcano a migliaia sulle nostre coste. Quando diventa sindaco si rifiuta di appendere la foto del Presidente della Repubblica perché Mattarella è un retaggio dell'Ancien Régime. Negli anni si è distinta per la lotta all'unione civile delle coppie gay, ha definito il registrucolo degli amanti omosessuali, ai migranti, a chi aiuta i migranti e per una squisita sensibilità femminista. La violenza è parte dell'uomo e della donna, è parte della natura. Che si menino, scrive Aldo Grasso. Si è anche sostituita all'unità di crisi della Farnesina per recuperare degli italiani in vacanza alle Canarie, bloccati per l'emergenza coronavirus. La morale della favola. I chihuahua sono piccoli cani dal cuore grande e dall'indomito coraggio. Hanno un solo piccolo difetto. Credono a quello che raccontiamo loro. L'apertura vera e propria, vi dicevo, è sul MES. Il MES e i tanti rinvii, tensione nel PD con Conte e 5 Stelle. Sulla questione, visto che l'abbiamo sfiorata parlando appunto dell'iniziativa del candidato a guidare la Regione Toscana, che quando era appena iniziato il lockdown andò alle Canarie con un autobus a riprendere i nostri connazionali bloccati alle Canarie. Frontiere, pasticcio europeo, ripartenza in ordine sparso, niente accordo a Bruxelles sulla riapertura dei confini, confini esterni dell'Unione Europea perché quelli interni sono stati appunto riaperti, l'ipotesi no agli americani, sì condizionato ai cinesi e il Ricciardi, che era vicepresidente dell'OMS, è italiano, decidere con cautela. Poi sulla scuola, caccia alle aule. E visto che abbiamo citato appunto i migranti, c'è un bellissimo articolo di Bernard Henri Lévy che trovate alle pagine 12 e 13, richiamato dalla foto in prima pagina, reportage tra i profughi abbandonati sull'isola greca di Lesbo. Lesbo, dove i bambini si suicidano. I due editoriali della domenica. Eugenio Scalfari, che cosa c'è nel futuro di Conte, mentre Maurizio Molinari, direttore di Repubblica fra Stati Uniti e Unione Europea, prove d'intesa su Pechino. Vi segnalo, richiamato dalla prima pagina, troveremo tanto spazio su questo lutto, l'addio a Milton Glaser, il designer della modernità. E il ricordo poi è affidato a Marco Belpoliti alle pagine 30 e 31. Magari il nome di Milton Glaser non è familiare a tutti, aveva 91 anni, è morto nel giorno del suo compleanno, del suo 91esimo compleanno a New York. Però se vi dico il I Love New York, il famoso logo con la I, poi il cuore rosso e NY, l'ha inventato lui, per dire, quindi fa un po' parte, era un grande del design ma molto discreto, quindi conosciamo il suo lavoro ma forse non conosciamo il suo nome. La stampa con la Repubblica come ogni domenica in edicola all'Espresso, vi leggo il titolo della copertina illustrato da un disegno di Mauro Biani, che è stato, lo sapete, il vignettista del Manifesto per tanti anni, adesso è passato a Repubblica. Camere svuotate, governo senza Parlamento, deputati e senatori senza ruolo, cittadini senza rappresentanza, un referendum truffa a cui dire no. La democrazia costa troppo, dice uno dei due personaggi di Biani, e l'altro risponde riduciamola. La stampa, la destra contro Merkel, Europa basta parole. Il riferimento è all'intervento che ha fatto anche la Merkel, naturalmente fatto proprio perché sta per iniziare la sua presidenza, con un consiglio all'Italia di fare, di ricorrere al MES, che sarebbe, lo ricordiamo, sarebbero fondi immediatamente disponibili, non hanno più le condizioni stringenti del MES che invece fu offerto alla Grecia con condizioni molto diverse. C'è stato un no sdegnato da parte del Premier Conte, e tutti questi retroscena li trovate poi dalla pagina 2 alla pagina 5. La stampa naturalmente dà tanto spazio a questo perché la stampa è il giornale italiano che ha pubblicato l'intervista alla Merkel, che in Germania è stata pubblicata dalla Süddeutsche Zeitung, in altri paesi da altri giornali, che infatti era il titolo della stampa di ieri. L'Italia utilizzi tutte le risorse dell'Unione Europea, e Salvini e Meloni che continuano a sostenere che invece sia una trappola. Anche la stampa ha in prima pagina, questo per darvi l'idea appunto dell'importanza anche di chi non conosceva il nome di questo grande artista, Milton Glaser, addio al cuore di New York. Massimiliano Panarari poi lo ricorda a pagina 21 della stampa, creò il logo simbolo della grande mela, aveva 91 anni. Il Messaggero apre sulla questione delle scuole e per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, perché ha anche un'intervista al Messaggero al ministro Speranza, che poi trovate alle pagine 2 e 3, e il titolo è un virgolettato di questa intervista: Scuole sotto controllo medico. La foto viene dalla partita di ieri Lazio-Fiorentina, e la Lazio alla fine ha recuperato e quindi adesso è a soli 4 punti dalla soli 4 punti dalla Juventus, che è in cima al campionato naturalmente. Un altro approfondimento sul MES lo trovate sempre in prima pagina, e poi tutti gli approfondimenti sulle tensioni all'interno del governo e non solo, dalle pagine 4 alle pagine 8. Conte rinvia a settembre il voto sul MES, e poi c'è anche la questione RAI. L'elogio dell'amministratore delegato della RAI Salini da parte del Movimento 5 Stelle fa irritare il PD. La RAI, sempre la TV pubblica, sempre ostaggio, potremmo dire, dei governi di turno. Ultimo titolo che vi leggo prima della pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, quello dell'Avvenire, perché anche questo è sulla scuola. La parità fa bene. Le scuole paritarie aprono le strutture al 15% degli studenti che resteranno esclusi dagli istituti statali, e si rilancia il modello Pisapia con i voucher. Ora ci lasciamo, come vi dicevo, per una pausa. Ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS, all'ascoltatore in particolare che chiede cosa ne so io del MES o cosa ne sappiamo noi delle condizioni cambiate del MES. Alcuni giornalisti hanno dubbi, al di là dei dubbi che tutti possono avere, anzi io ho sicuramente quasi zero certezze e moltissimi dubbi su tutto. Ci sono però i numeri, e quelli non sono da mettere in dubbio. I numeri sono che il nostro debito esploderà dal 130 al 160% del PIL entro l'anno, che la scuola ha appena avuto giustamente 1 miliardo in più, ma sono tutti finanziamenti in debito, che a settembre molta della cassa integrazione non verrà rinnovata, e queste sono scadenze a breve. Il MES ha il vantaggio, e questa è una certezza, non un dubbio, che sono miliardi che potrebbero arrivare entro l'anno, mentre per tutti gli altri strumenti, tra cui il Recovery Fund, che deve ancora essere negoziato dai 27 paesi, si parla del 2021. Da qui l'urgenza che ha l'Italia per la scuola, per la sanità, per il lavoro, di appunto fondi europei, e da qui il consiglio di Angela Merkel di usare il MES. Bene, detto questo, dalle prime pagine vi segnalo quella del secolo XIX, perché ieri le foto ci sono su tutti i giornali, le avrete sicuramente viste anche su internet o in televisione. Ieri c'è stato questa grande corsa al mare, alle località di mare, alle località di vacanza, con intasamenti in particolare per chi andava verso la Liguria o in treno o in macchina. E da qui il titolo del secolo XIX, il Ministero convoca autostrade, possibili ispezioni più veloci verso la chiusura dell'A26 tra Voltri, vicino a Genova, e Masone per 5 giorni, e il governatore della Liguria Toti ha annunciato un'ordinanza per impedirlo. In Liguria cresce la protesta degli albergatori che dicono non pagheremo più tasse, e gli industriali piani sbagliati e dannosi. La foto è quella di una spiaggia, della spiaggia libera di Savona, spiagge e treni affollati, la Liguria non tiene le distanze. Il Giorno ha un'apertura come quasi ogni domenica sul sondaggio che conduce, e questa settimana il sondaggio riguarda quello che pensano gli italiani, degli italiani naturalmente interpellati dal sondaggio, la paga dei politici secondo gli italiani. Un parlamentare dovrebbe guadagnare 3.000 euro, cioè 9.290 in meno rispetto a quanti ne guadagna attualmente, il capo dello Stato 18.000, cioè 6.000 in più. Turismo in crisi, flop del bonus vacanze, e il sindaco di Firenze Dario Nardella che dice puntiamo su arte e moda. Questo è legato all'annuncio fatto venerdì che il 2 e il 3 di settembre Dolce Gabbana andranno a Firenze con una sfilata, e sono attese molte persone, se naturalmente le condizioni sanitarie resteranno quelle di adesso, per un grande evento che può rilanciare Firenze, che insieme a Milano è una delle due capitali della moda. E dico sempre, non pensate solo alle sfilate, pensate a tutto quello che c'è dietro, nel caso di grandi eventi l'indotto per una città, e nel caso delle sfilate che sono semplicemente la punta dell'iceberg di un sistema, il sistema del tessile moda, che vale 90 miliardi in Italia. La foto però è legata a quel fatto di cronaca terribile: Mario Bressi, 45 anni, che ha ucciso i suoi due figli, due gemelli, avevano 12 anni, e a questo il Giorno dedica le prime 5 pagine del giornale. Poi a pagina 6 e 7 trovate appunto il sondaggio. Il Giornale, semaforo rosso. In Liguria per la prima volta uno stop in autostrada, è il simbolo di un paese nel caos e di un governo in panne. E poi vi segnalo, perché ieri L'Oréal nei giorni scorsi ha annunciato che non toglierà il nome sbiancante dalle sue creme. La notizia, secondo me, per quello che riguarda L'Oréal, è in realtà il lancio che ha fatto di un piano per la sostenibilità entro il 2030, un piano eccezionale che renderà anche, tra l'altro, gli stabilimenti carbon free, cioè a zero emissioni, entro il 2025, anzi non solo gli stabilimenti, tutte le sedi. Ricordo che L'Oréal in Italia è molto presente da sempre, ha un stabilimento modello a Settimo Torinese che impiega 800 persone. Ma Massimo Arcangeli sul Giornale e su altri quotidiani, altri giornalisti si esercitano su questa che chiamano follia buonista, vietato dire crema sbiancante. Io credo che nessuna persona con la pelle tra virgolette bianca possa esprimersi su quanto possa essere offensivo per invece chi la pelle bianca non ha l'aggettivo sbiancante, ma tant'è, ci prendiamo tutti la licenza di giudicare cose che non abbiamo provato sulla nostra pelle, in questo caso veramente anche in senso letterale. Libero, Italia paese dei balocchi, più spese nel gioco che per la salute. Libero prende spunto da questo dato, in effetti impressionante: per scommesse, azzardo e lotterie sborsiamo 127 miliardi, senza contare alcol, droga, maghi e palestre, in tutto 275. E il confronto però, e quindi è un confronto tra mele e pere, è con quelli che i miliardi che lo Stato stanzia per la sanità, che sono 120. Quindi da una parte soldi che i privati decidono di spendere e dall'altro soldi che invece spende lo Stato. La foto è quella di una foca che nuota, perché la bella notizia è che è ricomparsa la foca monaca dopo 60 anni di assenza all'isola di Capraia. E poi l'editoriale di Vittorio Feltri, che inizia con una domanda che mi sento di condividere, mi sono fatta spessissimo negli ultimi giorni, perché si rincorrono gli annunci da parte dei conduttori televisivi della sospensione dei loro programmi, e Vittorio Feltri si chiede come mai in estate i programmi TV vanno in letargo. La verità, magistrati pronti alla rivoluzione per avere viaggi e cellulari gratis. La verità approfondisce giustamente lo scandalo che ha investito la magistratura con le intercettazioni dei membri della ANM e del CSM. Non solo nomine nelle carte di Perugia, la procura di Perugia è quella che sta indagando su questo scandalo. Un furto, è il Pueblo Unido, no, non è un corteo studentesco, ma la chat dei giudici circa il riscatto dei loro telefonini. Le foto stile villaggio vacanze scattate dalle toghe nelle costosissime, per noi, cioè per i contribuenti, missioni estere. Il Fatto Quotidiano apre a un'apertura completamente diversa ed è dedicata a una notizia, quella che Roberto Maroni, ex governatore della Regione Lombardia prima di Fontana, San Maroni, patrono delle cliniche private che ora lo ingaggiano, perché la notizia è appunto che è stato arruolato dal gruppo Rutelli, quello che controlla il San Raffaele e altre cliniche. Insieme a Angelino Alfano, che ricorderete ministro degli interni e poi degli esteri, e la moglie di Bruno Vespa. A questo sono dedicate le pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano di oggi. Il manifesto, che spettacolo, il riferimento è alle difficoltà che ha un settore, in questo caso quello dello spettacolo, ma sappiamo che le difficoltà sono per tutti, legate al Covid. I lavoratori dell'arte e della cultura, piegati dalla crisi del Covid, protestano in piazza Roma. Stanchi delle briciole, chiedono un tavolo al governo e una visione ampia del problema, mentre la Germania mette in campo un maxi piano da 1 miliardo per l'industria creativa. E ricorderete sicuramente, a me aveva fatto molta impressione, che nella presentazione del decreto rilancio, quello che Sebastiano Barisoni giustamente chiama in realtà il decreto ristoro, Conte aveva detto che non si sarebbe dimenticato degli artisti, che ci fanno tanto divertire. Gli artisti non ci fanno solo divertire, pensate per esempio, come hanno sottolineato in molti, quanto sono stati importanti in questi mesi di lockdown gli artisti, nel senso che se non avessimo avuto anche a casa la possibilità di guardare la televisione, guardare film, leggere, non so come sarebbe stato questo lockdown, probabilmente ancora peggiore di quanto è stato. E la Germania, se non altro, per esempio, ha riconosciuto appunto che tutti gli artisti, pensate ai cinema che non hanno ancora riaperto, e comunque non si sa come ripartirà l'industria del cinema, hanno avuto una vera ibernazione delle loro attività per questi mesi, e quindi la Germania ha messo in campo questo piano appunto per l'industria creativa. Andiamo alle pagine interne dei quotidiani. Vi dicevo, il decreto cosiddetto semplificazioni, trovate tutto a pagina 3, Giorgio Santilli, tempi certi per le autorizzazioni ambientali, c'è un articolo di presentazione e uno specchietto che spiega appunto tempi e contenuti del decreto semplificazioni. Poi sulla questione della Germania che assume la leadership europea, Beda Romano a pagina 8, la Germania assume la leadership europea, dal 1 luglio la responsabilità per 6 mesi sarà nelle mani del governo tedesco, prima sfida far approvare il recovery fund. E poi vi dicevo l'inchiesta La Domenica sul riscaldamento globale, Antonella Scott, pagina 10, permafrost sempre più vulnerabile, la Siberia dall'allarme al mondo. Forse avrete visto nei giorni scorsi le foto di quelle persone che facevano il bagno, perché in Siberia in questi giorni si è toccato i 38 gradi. Il record di Verkhovyansk, nel cuore della Repubblica di Sakha in Siberia, il villaggio contende a Omiakon il primato di luogo più freddo del mondo. Invece c'erano il 20 giugno scorso, si sono registrati appunto 38 gradi. E poi comunque il legame, sempre di Antonella Scott, il pezzo che ci spiega il legame con l'industria dell'oil and gas, rischio blocco dell'export. La pagina Sport e Business, come ogni settimana sulle 24 ore della domenica, questa settimana dedicata al golf, parte veloce un'industria da 200 miliardi. L'articolo di Marcello Frisone, attrezzature e abbigliamento generano 13,44 miliardi di dollari, la disciplina è praticata, pensate, in quasi 39.000 campi dislocati in 209 nazioni. In anticipo sui tempi, dal 9 al 12 luglio debutta in Austria il PGA European Tour, che è uno dei più importanti appunto tornei del golf. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici naturalmente per l'ascolto e anche a chi manda messaggi al 349-238-6666. Come prevedevo, la questione della decisione di L'Oréal di togliere la parola sbiancante suscita molte reazioni, come credo si sia capito. Io sono tendenzialmente la trovo una cosa ragionevole, ma lo dico da bianca e noi non possiamo sapere che cosa provi un nero quando, quando vede una crema che viene esaltata perché sbianca la pelle, come se avere la pelle non bianca fosse qualcosa di cui vergognarsi o su cui intervenire. Ultima segnalazione dal Sole 24 Ore, la sezione Lifestyle della domenica, un lungo articolo di Giambattista Marchetto, le migliori annate tra le mura dei monasteri, quindi l'enoturismo dall'Alto Adige alla Toscana alla scoperta delle abbazie con vigneti e cantine, tra visite guidate e degustazioni. E la seconda pagina di Lifestyle, tutta dedicata a Fornasetti, il grande designer. Abbiamo parlato di Milton Glaser, che Stefano Salis, autore di questo articolo, ricorda poi sul domenicale, e qui parliamo di Fornasetti alla Pilotta, un'esposizione che mette in dialogo le produzioni dell'atelier milanese con le architetture e opere del complesso monumentale di Parma. Abbiamo ancora qualche minuto, poi passiamo ai supplementi domenicali. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sulle municipali francesi che si terranno oggi. Scrive Stefano Montefiori: Parigi è persa, il premier Philippe corre a Le Havre, comunque vada potrebbe servire un rimpasto di governo. Parigi è persa nel senso che l'attuale sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che è del centro-sinistra, quindi non del partito di Macron, è quasi certa di una riconferma. Ma passiamo ai supplementi domenicali, anche se avevo tenuto via tantissimi approfondimenti, soprattutto dall'Avvenire, perché parla di tante questioni di politica estera che, a proposito, o meglio, parla di tante questioni che riguardano paesi che non sono l'Italia, e sono questioni anche quelle un po' ibernate solo nel senso di attenzione mediatica durante il lockdown, ma appunto questi pochi minuti che ci restano dedichiamoli ai supplementi domenicali e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa domenica prende spunto da alcune parole di George Bernard Shaw, e sono queste: si usa uno specchio di vetro per guardare il viso, si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. Abbiamo parlato appena pochi minuti fa appunto dell'importanza di sostenere l'industria della creatività. Scrive Ravasi: quante volte si è sentito dire anche da ministri che carmina non dant panem, tradotto brutalmente, con l'arte non si mangia. Lo scrittore latino Petronio, in modo più raffinato, rilevava un dato amaro già nel primo secolo. Coltivare lo spirito non ha mai arricchito nessuno. In verità questo non è sempre vero se si pensa ad esempio che il bilancio del piccolo Stato Vaticano è sostenuto ancora oggi soprattutto da Michelangelo con gli ingressi alla Cappella Sistina. Tuttavia è certo che l'arte non ha una finalità economica, nonostante il corollario delle attuali aste di opere artistiche. La meta che essa propone, e non è certo meno preziosa, è illustrata in modo limpido dal detto di George Shaw sopra citato. In un dipinto, ma anche in un libro, puoi specchiarti non come accade al vetro che riflette la tua esteriorità, bensì per scoprire i segreti della tua anima, quei misteri che l'artista ha saputo rappresentare in modo universale. Infatti, come dice un aforisma, chi lavora con le sue mani è un operaio, chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista. E a proposito di artisti, a un grande artista è dedicato la copertina vera e propria della Domenica del Sole 24 Ore, la partitura perfetta di Gustav Mahler, e tra l'altro lo ricorda un grande direttore d'orchestra. Gustav Mahler fu compositore ma anche direttore d'orchestra, Daniele Gatti, direttore d'orchestra italiano, rievoca l'incontro con le opere del compositore austriaco, prima attraverso l'ascolto e poi naturalmente con la direzione. Carlo Ossola invece firma un ricordo di Marc Fumaroli, umanista d'Europa, storico e saggista, membro dell'Académie française, docente al Collège de France, era molto legato alla civiltà spagnola, è morto il 10 giugno, e vedeva accomunate tutte le culture del vecchio continente nell'eredità classica. Vi dicevo il ricordo di Stefano Sali di Milton Glaser, un logo per far amare la grafica, scomparso a 91 anni, il noto creatore del marchio I Love New York. E molto bello perché l'articolo è illustrato da un altro grande opera di Milton Glaser, che è un ritratto grafico, molto grafico, di Bob Dylan, poi c'è non tanto il logo che conosciamo tutti, quel I Love New York, ma lo schizzo con cui Milton Glaser cominciò a lavorare su quel logo, che poi lui regalò alla città di New York dove viveva e dove aveva il suo studio, il Pin Studios. Ma pensate quanto merchandising ha fruttato e quindi quante royalties ha fruttato alla città di New York quel logo. La lettura del Corriere della Sera è come sempre dedicata, affidata a un artista. Questa settimana è Miltos Manetas, che tra l'altro è un'opera che raffigura un gatto, quindi la trovo bellissima. Ma questi sono due libri che io oggi vado a comprarmi, consigliati dalla lettura. E a pagina 14-15 Danilo Zagaria recensisce questo libro di Merlin Sheldrake che si intitola L'ordine nascosto, la vita segreta dei funghi. Il cervello dei funghi, l'intervista racconta, in questa intervista l'autore racconta, ci confondono e li confondiamo, sono talvolta indigesti e talvolta velenosi, eppure svolgono fondamentali funzioni. Leggete il micologo Merlin Sheldrake, il mondo sarà diverso. E l'altro libro si chiama Flower Power, l'ha scritto Alessandra Viola, Le piante e i loro diritti, arbusti e fiori visti a immagine dell'umanità. E qui la recensione di Telmo Pievani, che tra l'altro anche gli ascoltatori conoscono, è stato anche una voce di Radio 24. Un'altra recensione, un'altra segnalazione dalla lettura è il libro di Esther Safran Foer, che è la mamma di Jonathan Safran Foer, che ha scritto un libro sulle orme del questa segnalazione del libro si intitola Sulle orme del padre e del figlio. La madre dello scrittore è tornata in Europa orientale, oggi Ucraina, allora Polonia, dove la tragedia che ha segnato la sua famiglia ha avuto inizio, le persecuzioni, la Shoah, il suicidio del papà quando lei aveva 8 anni, e finalmente ha avuto la forza di scrivere quella storia. Qui ne parla con Jonathan, che da quella stessa storia trasse la materia per il suo libro, da cui è stato anche tratto un film bellissimo, Ogni cosa è illuminata. Ultimissimi secondi per segnalarvi Robinson della Repubblica, che da molte settimane ormai usa questa formula, cioè di un tema che occupa le prime 8-10 pagine del supplemento. Questa settimana è tutto dedicato al quadro Salvator Mundi di Leonardo. Indagine sul Salvator Mundi, la spy story vera che tiene in scacco il mondo dell'arte. E sempre da Robinson vi segnalo la serie Straparlando, le lunghe interviste illustrate sempre da bellissimi ritratti di Riccardo Mannelli, e questa settimana è dedicato a, qui mi sono perso una pagina, dovete perdonarmi, a Giulio Ferroni, come sempre le interviste di Antonio Gnoli, l'impossibilità di essere un critico, quindi un grande critico che però racconta anche come sia anche difficile concepire questo mestiere, appunto, di una persona che di professione critica il lavoro degli altri. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.